Bene, siamo veramente grati anche di tutto quello che stiamo vivendo come famiglia in questa stagione. Ieri c'è stato un matrimonio, siamo una chiesa viva, anche bambini in arrivo. Siamo benedetti nel sapere che il Signore all'opera si prende cura di noi in ogni stagione. Oggi vorrei introdurvi un discorso riguardante un pensiero che è meditato sul tema di come te. Voi sapete che il nostro come te quest'anno ci ha perseguitato, no? In tutte le maniere. E quello che mi ha colpito di più anche in questo momento, anche della mia vita, è riflettere su questo tema e sapere anche un altro aspetto in più, riconoscere un altro aspetto in più riguardante il come te, come il tuo cuore, Gesù. Io vorrei capire com'è il tuo cuore, come tu pensi, come tu agisci, come tu mi vedi anche, ci vedi. E proprio alla luce di questo verso ho pensato a diverse persone che sono citate nella Bibbia, ma ci arriviamo. Volevo raccontarvi solamente una piccola storia all'inizio, di ricordarmi di una cosa che mi è successa diversi anni fa, circa 20 anni fa, forse 15, dai, appena era iniziato, vabbè, sapete, la vecchiaia fa brutti scherzi, non ti ricordi le cose? Tra l'altro la settimana del mio compleanno, allora, sai, l'età avanza. Grazie. Ricordate quando è uscito Instagram? Forse non siete vecchi abbastanza, o forse sì. Quando è uscito Instagram era molto bello. Non era come adesso, che è tipo la rotella del criceto, no? Che devi scorrere così, continui a vedere cose, sei quasi costretto a vedere contenuti che, insomma, sono un po' contenuti personali, no? Delle persone che pubblicano le loro cose. Invece all'inizio era un social di fotografia, esclusivamente di fotografia, di arte, di contenuti. No, giusto, Davide Palladino, tu eri un nostro content creator all'epoca, molto apprezzato. E mi capitò di pubblicare delle cose, mi piaceva molto anche come social, molto differente da Facebook. E un giorno, quando ho pubblicato una cosa, ho avuto un like molto speciale. Una persona che stimo veramente tanto, tanto, tanto, mi aveva messo un apprezzamento e un commento molto, molto bello. Ragazzi, mi faceva proprio piacere questa cosa, mi ha fatto tanto piacere. Io proprio camminavo a 3 metri sopra il cielo, proprio dicevo, ma ha messo mi piace. Ma proprio lui, non so se voi avete delle persone che stimate in particolar modo, però pensateci solamente se la persona che più stimate al mondo vi mettesse un like e dicesse, oh, mi piace quello che fai, mi piace quello che crei. È una soddisfazione incredibile. È quello che mi è venuto in mente proprio in relazione al fatto che Dio si aspetta delle cose anche da noi, un po' a Lui piace mettere mi piace, ok? E ci sono, sfogliando la Bibbia, delle persone che hanno ricevuto un like molto speciale, proprio un apprezzamento molto speciale. E proprio perché introduciamo questo argomento come il tuo cuore, c'è una persona, anzi più di una persona, che ha ricevuto un apprezzamento da Dio personale. Vediamo un po' se ce la facciamo a ricordare chi sono. Davide. Però prima di tutti è Gesù, perché, vabbè, Gesù 2 like addirittura, perché uno quando si è battezzato e c'è questa apparizione con una voce udibile che dice questo è il mio diletto figliuolo in cui mi sono compiaciuto, cioè mi piace proprio, questo è quello che io mi aspetto che succeda, no? Mi piace proprio. E poi un altro like alla trasfigurazione, quando di nuovo Gesù ha questo incontro con i discepoli e il Padre e c'è questa voce, questo è il figlio in cui io proprio mi diletto, mi piace, è come io vorrei. E poi c'è un altro like, appunto Davide, diceva Antonio giustamente, è quello su cui ci soffermeremo di più, perché è quello un po' più strano. Se ti aspetti che Dio metta il suo cuoricino su Gesù, e ci sta, perché è il figlio, giustamente. Però su Davide È un po' controversa questa cosa, perché quando tu pensi a Davide inizi a costruire un po' un percorso di una storia di una persona che ha avuto luce e ombre, diverse contraddizioni nella propria vita. Spesso noi ce lo immaginiamo nella storia più classica, Davide il pastorello e vince Golia. Cioè combatte, vi ricordate la storia che con la fionda, che poi diciamo la verità era un gigante, era difficile mancarlo, insomma, quando cioè, ce l'ha fatta, alla fine è stato bravo perché l'ha centrato nel punto giusto, però era un gigante, insomma, ce l'ha fatta. Però Davide poi cresce, diventa un re, diventa uno stratega, diventa un guerriero, diventa una persona che è un influente politico. Quindi il suo percorso di vita anche cambia. E se Dio ha detto di Davide, lo leggiamo in Atti, c'è scritto: io ho trovato Davide, figlio di Isai, uomo secondo il mio cuore, che seguirà ogni mio volere. Vi ricordate questo? È citato da Paolo ad Antiochia per convincere gli ebrei in sinagoga a dire: raga, partiamo da Davide. Vedete qua, aveva messo proprio un mega like, un mega cuoricino su Davide, gli dice: io ho trovato Davide secondo il mio cuore. E io mi sono chiesto: ma come fa Davide, con una vita così compromessa, a rappresentare la persona che Dio apprezza? E glielo dice pure nella Bibbia, in mezzo a tanti altri che avrebbe potuto, come dire, individuare. Però proprio su Davide c'è questo riflettore con questa definizione e si prende questo apprezzamento. Ora, se fosse stato per me, dice, una persona come Davide, oggi la incontriamo, facciamo uno sforzo di fantasia, ce lo ritroviamo in chiesa qui e conosciamo un po' la sua vita compromessa, situazioni difficili che ha dovuto affrontare, 8 mogli, 19 figli e una figlia, almeno quelli citati, no? Una persona con diversi problemi personali, sconfitte, alti e bassi, arriva qui in chiesa, l'accoglieremmo? Gli diremmo il nostro benvenuto a casa? Con un po' di, certamente, però con un po' di difficoltà, perché dici, ma a questo qui che cosa gli vuoi fare? Cioè, Noemi, che percorso gli facciamo fare a questo? Percorso zero, che non c'è, percorso zero, perché devi ricominciare dall'inizio. Ci sono proprio delle situazioni che noi non avremmo, probabilmente non affronteremo mai e non vivremo mai. Ma qui è la nostra analisi di oggi. Vorrei proprio capire insieme a voi perché Dio alla fine dice su quest'uomo: tu sei secondo il mio cuore. Allora, forse non tutti ricordano la storia, la introduciamo, perché c'è un momento particolare della vita di Davide che è quando c'è questa storia con Bezzabea, no? Vi rinfresco un po' la memoria, storia lunga, la facciamo breve. Davide è in quella situazione di vita in cui è diventato un re affermato, invece di andare in guerra, un giorno sta nel suo palazzo, si affaccia alla finestra e vede questa ragazza che fa il bagno, *A*, non posso perché ci sono i minori, ok. E quindi gli prende una crash, come direbbero quelli della generazione X, gli parte la ship, per dirla ancora più, prende una sbandata per voi millennial e vecchietti, insomma, prese boomer. Gli prende una sbandata. Che cosa fa? Dice: farla venire a palazzo. Prende il suo servitore e dice: portatela qua. E lei va accolta dal palazzo del re. Ci sono sempre minori, parte Tony F e Gaia, diciamo, finisce tutto in din don dan, insomma, commette adulterio, ok? Ci sono sempre minori, devo essere discreto. Cosa succede? Che, ottimo lavoro Davide, Bezzabea rimane incinta e sta tornando suo marito dalla guerra e viene accolta in un convito, in un pranzo reale, Davide si avvicina ad Uria, c'è pure questa situazione molto imbarazzante, gli dice: Uria, perché non vai da tua moglie? Stai un po' con lei. Così l'idea era, il piano, ok, capiranno che sono stati insieme, suo figlio non è il mio e quindi riconosceranno come figlio suo, io la passo liscia. Ma Uria non ci va perché dice: guarda, caro re, noi siamo in guerra, mica ci possiamo prendere distrazioni, dobbiamo stare tutti pronti per ripartire. Infatti Uria non incontra sua moglie. Viene posto da Davide come ultimo tentativo di ripulire questa storia, dice: guarda, vai in prima fila a combattere, mettetelo in prima fila perché tu sei un soldato coraggioso. Ma lo scopo era che, essendo in prima fila, sarebbe stato una delle prime vittime in battaglia. E infatti Uria muore. Betsabea viene accolta a palazzo, diventa nuova moglie di Davide e tutto sembra filare liscio, ma purtroppo non è così, perché a un certo punto, come sapete, arriva il profeta Nathan che dice a Davide: guarda che c'è stato un problema, un altro problema che è successo, guarda, c'è questa storia qui che ti voglio raccontare, c'è un uomo ricco, un uomo povero, e questo povero c'ha solo una pecorella, e questo ricco c'ha tanti animali. Quando accoglie un ospite, invece di prendere del suo bestiame, va e prende la pecorella di questo pover'uomo e gliela toglie per accontentare il suo viandante. Ora, cosa dobbiamo fare? Lo dobbiamo uccidere, questo qua merita la morte perché ha sbagliato. Chi è quest'uomo che ha commesso una cosa del genere? E Nathan gli dice: guarda, sei proprio tu. Quindi, brutta figura come minimo, diciamo come definizione migliore, ma la questione è che in quel momento Davide ha realizzato che aveva creato un problema familiare, aveva commesso adulterio, le sue mani erano sporche di sangue ed era in grossi guai con Dio. Ma grossi, cioè, come minimo. La bellezza, e qui iniziamo a capire un po' come reagiamo davanti a situazioni negative, come reagiamo davanti a circostanze che provano anche la nostra fedeltà. Come diceva oggi, parlavamo prima con Noemi, davanti alle difficoltà o ne esce più forte o ne esce distrutto. E vediamo qui come reagisce Davide. Come sapete, Davide è anche un cantautore, diremmo noi oggi, no? Scrive numerosi salmi, è uno dei salmi più belli che lui scrive, che è un po' forse la radiografia del suo cuore. Ci fa capire proprio com'è fatto quel cuore che Dio ama tanto, lo rivela in un salmo che è il Salmo 51, che lui scrive proprio a causa di tutto questo. Quindi immaginatevelo, chiuso in una stanza, distrutto, e legge queste parole, ve le leggo io, non verranno proiettate, però facciamo uno sforzo di raccogliere questo salmo come una nostra preghiera anche. Prendiamo un attimo di tempo, se vi va anche potete chiudere gli occhi e ascoltare il testo. Abbi pietà di me, oh Dio, per la tua bontà, nella tua grande misericordia cancella i miei misfatti, lavami da tutte le mie iniquità e purificami dal mio peccato. Ho peccato contro te solo, ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi. Perciò sei giusto quando parli e irreprensibile quando giudichi. Ecco, io sono stato generato nell'iniquità, mia madre mi ha concepito nel peccato. Purificami con issopo e sarò puro. Lavami e sarò più bianco della neve. Fammi di nuovo udire canti di gioia e di letizia ed esulteranno quelle ossa che hai spezzato. Distogli lo sguardo dai miei peccati, cancella tutte le mie colpe. Oh Dio, crea in me un cuore puro e rinnova dentro di me uno spirito ben saldo. Non respingermi dalla tua presenza e non togliermi il tuo santo spirito. Rendimi la gioia della tua salvezza, uno spirito volenteroso mi sostenga. Insegnerò le tue vie ai colpevoli e peccatori si convertiranno a te. Liberami dal sangue versato, oh Dio. Dio della mia salvezza, e la mia lingua celebrerà la tua giustizia. Signore, apri le mie labbra, e la mia bocca allora proclamerà la tua lode. Tu infatti non desideri sacrifici, altrimenti li offrirei, né gradisci olocausto. Sacrificio gradito a Dio è uno spirito afflitto. Tu, Dio, non disprezzi un cuore abbattuto e umiliato. Fa del bene a Sion nella tua grazia, edifica le mura di Gerusalemme. Allora gradirai sacrifici di giustizia, olocausti e vittime arse per intero. Allora si offriranno tori sul tuo altare. Amen. Se dobbiamo vedere cosa succede in questo percorso, perché è un bellissimo viaggio questo Salmo, è tutto un po' in salita. All'apertura noi possiamo vedere lo stato e la consapevolezza di Davide riguardo alla sua situazione. Chiameremo questa prima parte intimità. Intimità con Dio è uno degli aspetti che fa di Davide quel cuore che Dio ama. Non c'è intimità se non c'è una relazione. La nostra preghiera deve vivere una chiara intimità. Non può essere il nostro avvicinarci a Dio semplicemente perché vogliamo spendere del tempo ed è buono, abbiamo il modo anche di leggere la Bibbia, va tutto molto bene, però spesso parlo di me, le mie preghiere assomigliano un po' a quelle che fa mio figlio quando si sveglia la mattina e mi dice: posso avere questo, posso fare questo, posso vedere questo. Cioè, sembra un po' un elenco di cose che presentiamo al Signore e diciamo: ho bisogno di te, sì, è vero, va benissimo. E ci sta che il nostro percorso con Dio, anche nella nostra preghiera, abbia le nostre richieste. Ma il cuore di una vera preghiera, come quella di Davide, non parte proprio da nessuna richiesta, se non il fatto di riconoscere che aveva bisogno di lui, che aveva bisogno di stare con lui. È un'intimità molto speciale perché non è costruita. Quando penso anche al modo in cui possiamo pregare, e anche pensiamo di costruire intimità, in un certo senso portiamo il nostro progetto di preghiera a Dio e gli diciamo: allora, ora è il momento in cui tu mi parli, o è il momento in cui tu mi dai la tua benedizione, è il momento in cui adesso parlo in lingue, cioè non so, abbiamo a volte degli schemi preimpostati, ma questa non è intimità. Un'intimità, ripeto, nasce da una vera e profonda relazione. Io non posso parlare dei fatti miei intimi alla prima persona che incontro sull'autobus, è vero? Non potrei mai. Lo potrei fare con una persona amica, o potrei fare con mia moglie, ma non potrei farlo con il primo che capita. Perciò, per Davide, è chiaro che lui non si è improvvisato in questa situazione, in questa preghiera, diciamo, adesso ti dico i fatti miei. No, è frutto di una vera intimità precedente, che era reale e concreta nella vita di Davide. E se c'è quell'intimità, abbiamo la possibilità di andare sempre davanti a Dio. Non abbiamo un'idea costruita delle conseguenze, ok? Dobbiamo andare e basta. In Davide troviamo il coraggio dell'intimità, la vulnerabilità, il suo essere aperto e ferito, perché vulnerabilità è essere ferito, essere pronto a qualunque fosse stata poi l'eventuale situazione futura e conseguenza. Ma lui in quel momento non gli importa, lui vuole stare in intimità con Dio. Non ha un altro scopo. Questo mi piace di Davide, e sono abbastanza sicuro che questo è piaciuto molto a Dio. Gli è piaciuto proprio. il fatto che lui fosse andato così onestamente, così con chiarezza, dimostrando che io voglio stare con te. È successo questo patatrac, non riesco ad alzarmi neanche dal letto, non ho il coraggio di incrociare gli sguardi di nessuno della mia famiglia e delle persone che vivono e lavorano con me, perché mi vergogno tantissimo, ma non mi importa, perché la cosa più brutta che potrebbe capitare, peggiore per me, è non avere la tua attenzione, non stare insieme a te, non vivere insieme a te. Io mi sono chiesto com'è la mia preghiera, com'è la mia intimità con Dio e devo dire che ho bisogno, perché io voglio ricordarmi e faccio fatica, perdonatemi, lo dico a mia vergogna, di pensare a una mia preghiera in ginocchio. Da quanto tempo le ginocchia non si piegano? Non è importante la posizione del tuo corpo, questo è chiaro, non sto parlando di questo. Non succede niente se io adesso mi inginocchio e resto in piedi. E qual è l'angolo della piega delle ginocchia del mio cuore? Quanto è piegato il mio cuore? Quanto riesce a piegarsi? Quanto riesce ad umiliarsi? Perché qui è una chiara posizione di umiltà, di sottomissione. E non falsa sottomissione per dire, ma vabbè, adesso pensaci tu. No, per dire, io ho sbagliato e te lo devo dire. Io ho bisogno di aprirmi con te, stare con te e dire, questo, d'ora in poi la mia vita dipende da te e voglio che continui a dipendere da te. Non ho un altro modo per andare avanti, perché non c'è un altro modo. E io ho amato tantissimo questo modo di pregare di Davide, perché mi ricorda che, e ci deve ricordare, che l'intimità è e farà sempre rima con una relazione. Intimità e vulnerabilità sono le chiavi per entrare al cospetto di Dio, non c'è un altro modo e a Dio gli piace tanto. Qualunque sia la situazione che vivi, se è una stagione molto positiva, di benedizione, di gioia, sono felice per te ed è bellissimo, però può essere che non è tutto così, però oggi ti chiedo, anche quando avremo un tempo davanti al Signore, non avere paura di andare davanti a Lui, perché Lui si aspetta che Lui ci vai. Sta proprio lì, che vuole che tu stia in intimità, in relazione, in vulnerabilità davanti a Lui. Il Salmo 51, abbiamo detto, un po' una strada in salita. È quello che è lo sforzo di tutte le parole di Davide, oltre a presentare la sua circostanza, è trovare riconciliazione. Non c'è una parola dopo la seconda parte, dopo il verso 9, che non esprima questa idea di dire io sto così, ma io voglio te. Non mi importa di nient'altro se non avere te, essere riconciliato con te, avere di nuovo pace con te. Io ho bisogno di stare con te, unito e riconciliato. Come lo esprime Davide? Qui c'è qualcosa che secondo me è un'intuizione straordinaria che Davide ha riguardo anche alla sua necessità di essere riconciliato. Mi spiego meglio. Sapete, c'è questo verso del verso 16 che dice del Salmo, tu infatti non desideri sacrifici, altrimenti li offrirei, né gradisci olocausto. Cioè qua sta dicendo, per quanto io ti possa offrire tori, animali, eccetera, non basterebbe mai a farmi sentire riconciliato con te, perché la cosa è proprio brutta e grave e non so come fare. Vorrei tanto offrire tutto il bestiame che ho a disposizione per essere riconciliato con te, e sarebbe giusto, perché la legge di Mosè diceva sì, per essere perdonato devi offrire dei sacrifici. Però qua sta dicendo, potessi vendere tutto il mondo, tutto quello che ho, bruciare tutto, non basterebbe. Di che cosa ha veramente bisogno Davide? E qui c'è la bellezza di questo salmo che ci rivela questa intuizione a distanza di secoli di Gesù, perché lui esprime tutto il senso della riconciliazione nel verso 10, quando dice: «O Dio, crea in me un cuore puro e metti dentro di me uno spirito ben saldo». Qui c'è scritto in pratica che posso fare tutti i sacrifici del mondo, ma se non interviene qualcosa di nuovo nella mia vita, io qui non posso andare avanti. Mi piace l'etimologia del verso, la potete vedere anche insieme a me, quando dice proprio nelle parole originali del Salmo, dice crea bara, cioè vuol dire porta a una nuova vita, fai qualcosa di nuovo, crea in me un cuore puro e lev, il cuore, e lev. È la stessa parola che si usa per dire che Davide era secondo il cuore di Dio, è lev, lo stesso cuore. Lev taor, crea in me una nuova coscienza, una nuova purezza. Cioè, crea è quella parola che troviamo anche in Genesi, no? È qualcosa di completamente nuovo, che non è mai stato fatto prima. Fai qualcosa di nuovo, fai qualcosa di nuovo. Qualcosa che mi restauri, che mi dia una nuova consapevolezza e metti dentro di me uno spirito, un soffio, la parola originale ruach, come nella creazione. Cioè lo spirito che dà vita quando crea l'uomo è questo, il ruach. Uno spirito ben saldo, che vuol dire costante, kun, no? Stabile, una certezza inamovibile. Stiamo parlando della nuova nascita e della salvezza in Cristo. Questo sta chiedendo a viva forza Davide. Io non posso arrivare a te con sacrifici e sforzi che io posso fare, posso arrivare a te solamente se tu mi riconcili a te attraverso una vita nuova. Ho bisogno di una vita nuova, ho bisogno di qualcosa che sconvolga la mia esistenza da ora in avanti, perché io non posso andare più così. Deve esserci qualcosa che viene restaurato, qualcosa che è nuovo. O Dio, crea in me un cuore puro, metti dentro di me uno spirito ben saldo. La nuova nascita di Davide è questa, è in questa dichiarazione, in questa necessità, questa rivelazione di Gesù meravigliosa, ancora prima che lui nascesse. Ed è bellissimo, ecco perché arriviamo un po' al senso del tutto, perché a Dio piace Davide, gli piace il cuore di Davide, perché non si affida alle sue forze, non è poggiato sulle sue capacità di migliorare, è poggiato sull'idea che vive in una relazione e quella relazione può esistere solamente quando Gesù fa parte di quella relazione, perché lui la crea e lui la stabilisce. Come misuriamo la nostra riconciliazione? A che punto è la nostra riconciliazione? È così? È nata solamente nel momento in cui abbiamo incontrato Cristo o è un percorso attivo? Qual è lo stato della nostra vita oggi? Io non posso capire né dare giudizi se non su me stesso, ma non posso dire qual è lo stato del vostro cuore, posso dire qual è il mio. E sapete, quando succede qualcosa di sbagliato, e credetemi, succede spesso qualcosa di sbagliato nella mia vita, perché i miei pensieri sono corrotti, le mie intenzioni sono corrotte, le mie azioni sono sbagliate, e sbaglio con mia moglie, sbaglio con i miei figli, sbaglio con il lavoro. Non posso mancare questo, purtroppo è così. Viviamo in circostanze dinamiche che provano la nostra vera vita, qual è. Allora ogni giorno, anche oggi, io ho bisogno di una riconciliazione con Dio, di vivere quella nuova vita che crea in me un cuore puro. Non la posso rimandare domani. Il mio atteggiamento, quando succedono queste cose un po' che mi sento profondamente sbagliato, e succede, e chiudermi me stesso e dire no, vabbè, non ci vado neanche da Dio, perché Dio che deve fare? Cioè, che brutte figure faccio? Ci vado pure a parlare. Sapete che cosa sto facendo lì? Peccando di orgoglio. Perché io sto dicendo, è meglio il giudizio che io do su me stesso, piuttosto di quello che Dio può dare sulla mia vita. E il giudizio che può dare sulla mia vita è riconciliazione. Io voglio essere riconciliato. Più tardi, no? In secondo Corinzi, troviamo Paolo che grida ai Corinzi, siate riconciliati, ve lo leggo, vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Quindi è evidente che non è una questione di un'esperienza unica, ma è una necessità costante e quotidiana di vivere una riconciliazione. E questo non è possibile se non attraverso Cristo. Non ci può essere un altro modo. Siete d'accordo con me? Io ho bisogno, insieme a voi, di vivere questo percorso. Anche oggi, un'occasione anche molto particolare. Oggi abbiamo la cena del Signore, no? È un momento in cui noi possiamo fermarci e uscire dal nostro guscio di autogiudizio e di sensi di colpa, perché questi sono solo aspetti di orgoglio, lasciatemelo dire, perché lo dico a me stesso. Usciamo da questo e approcciamoci come Davide ha fatto, forte di una relazione che abbiamo con Dio, forte di un'intimità che Dio ci offre. Non sta lì a dire, ma allora, no, sta lì pronto. E Davide lo sapeva, ed è lì pronto ad essere riconciliato con noi, perché lui ci ha riconciliati con lui in Cristo. Sapete che c'è un ultimo bellissimo like nella Bibbia, che non vi ho ancora detto, che è quello di Giovanni 3,16, che Dio ha tanto amato, te, me, noi tutti, ci ha amati e ci ha riconciliati. Qual è il like più grande potevi avere nella tua vita se non quello di Dio che ti dice tu mi piaci, non perché sei tu, perché quando vedo te, vedo Gesù che mi piace. E quando vedo Gesù che mi piaci pure tu. E non smetterai mai di piacergli. Non è possibile. Fin quando tu resterai e farai i tuoi passi, gli unici tuoi passi che Dio ti chiede è di vivere in quella relazione di intimità, di costruirla, di alimentarla. Vivi l'idea di quanto si piegano le tue ginocchia, perché io me lo sono chiesto. Quanto riesci in questo? Quanto desideri nel tuo percorso, anche nella preghiera, cercare di restare riconciliati e afferrare quel like che Dio ti ha messo? Guardalo, perché è scritto nella Bibbia, qualunque situazione stai vivendo adesso, stai passando, qualunque momento, anche triste o bello che sia, apri quella Bibbia e leggi, perché c'è quel like per te, c'è quel mi piace per te, nessuno te lo può togliere. Quello spirito ben saldo è inamovibile, è fondamentale e non si potrà mai cambiare, perché Lui l'ha provveduto per noi. Sì? Possiamo alzarci in piedi? Possiamo chiudere un attimo i nostri occhi? Possiamo anche preparare il nostro cuore anche a questo tempo, e viviamo anche un attimo anche di silenzio nel nostro cuore e dire: Signore, questo è il mio stato, io ho capito che posso veramente piacerti quando vengo davanti a te in onestà. Sono queste le mie vulnerabilità, io non posso mancare di riconoscerle, ma non posso neanche mancare il fatto che tu hai provveduto per me salvezza e che tu sei per me la persona da cui più voglio dipendere e a cui voglio piacere. E non posso farlo con i miei sforzi, perché tu l'hai provveduto per me. Tu hai provveduto Gesù per me, perché tu possa guardarmi e piacerti. E voglio ricordarmi sempre che tu mi ami tanto da morire. E non hai mai pensato di risparmiare niente di quello che tu potevi fare per me, perché io potessi essere riconciliato. Signore, io non voglio mancare oggi la mia intimità con te, non voglio mancare oggi la mia riconciliazione con te. Grazie perché possiamo venire davanti a te anche in questo momento, dove prendiamo il pane e il vino e ci ricordiamo di quanto tu hai provveduto, hai provveduto anche oggi, in questo momento, in questa stagione, in questa circostanza, bello o brutta che sia, Signore, io posso ricevere riconciliazione. Ti prego per ognuno dei miei fratelli qui, ognuna delle mie sorelle qui, che possiamo avvicinarci davanti a te anche in questo momento e essere trasformati, a ricevere quel soffio di vita che continua ad alimentare la nostra appartenenza a te. Ti prego per questo nel nome di Gesù. Amen. Abbiamo ora il tempo della cena del Signore, quindi potete avvicinarvi. Vi ricordo che è un momento in cui riserviamo le persone che hanno testimoniato della propria fede con il battesimo. Quindi se non sei ancora battezzato in acqua, ti chiedo di rimanere al tuo posto, ma di pregare insieme a noi e vivere questo tempo come un'opportunità di riconciliazione e di nuova vita che il Signore ha provveduto per te. Amen.